Siamo in collegamento con Antonio Mumolo, presidente della ONLUS, avvocato di strada e anche il legale che ha rappresentato la richiedente asilo nell'ambito del ricorso per l'iscrizione all'anagrafe, tra l'altro un processo, diciamo, che è andato a buon fine. Intanto io ti saluto e ti ringrazio per essere qui con noi. Grazie, grazie per l'intervista. E allora, appunto, dicevo una storia che è andata a buon fine, almeno in questo caso, perché tra l'altro ieri poi si è conclusa anche con l'effettiva iscrizione all'anagrafe dopo la sentenza. Ti chiederei intanto di raccontarci un po' di cosa si tratta, una conseguenza, diciamo, del decreto Salvini, tant'è che anche il commento del ministro dell'Interno non si è fatto attendere, quella della difficoltà a iscriversi come residenti, diciamo, dell'iscrizione all'anagrafe per i richiedenti asilo. Sì, allora l'articolo 13 del decreto Salvini sostanzialmente abroga una precedente normativa relativa alla residenza per i richiedenti asilo. Era una procedura semplificata, cioè l'articolo 13 elimina quella procedura semplificata perché prima i richiedenti asilo ottenevano immediatamente la residenza e la residenza gli veniva richiesta direttamente dai responsabili delle strutture, degli SPRAR, dove i richiedenti asilo venivano collocati. Questo perché la residenza è assolutamente necessaria per iniziare un processo di integrazione e quindi senza mandare il richiedente asilo all'anagrafe lo facevano direttamente responsabili degli SPRAR. La legge Salvini ha abrogato questa procedura, ma non è scritto in nessun luogo della legge che sia vietato dare la residenza ai richiedenti asilo. Questa interpretazione è stata fatta passare dal ministro che ha inviato a tutti i sindaci una circolare dicendo che sulla base della legge non si poteva più dare la residenza ai richiedenti asilo, ma in realtà non è così. Guardando la legge, leggendo la legge, si può verificare che non c'è un divieto di dare la residenza ai richiedenti asilo, è stata soltanto modificata questa procedura, anzi eliminata questa procedura semplificata, e in più nella legge c'è scritto che la richiesta di asilo non costituisce più titolo per richiedere la residenza, cosa difficilmente interpretabile perché per richiedere la residenza non ci vuole nessun titolo, cioè se io o lei andiamo in anagrafe non ci chiedono un titolo, ci chiedono una dichiarazione. Cioè la dichiarazione di essere presenti sul territorio e la dichiarazione di volontà di richiedere e ottenere la residenza. Quindi, quando questa signora è venuta da noi dicendo che l'anagrafe le aveva consigliato di non presentare nemmeno la domanda perché le avrebbero risposto negativamente, noi le abbiamo detto assolutamente no, la legge, il decreto Salvini non dice questo e quindi abbiamo fatto una domanda formale all'anagrafe, è stato risposto di no. Sulla base di questa interpretazione data dalla circolare inviata dal Ministero a tutti i sindaci, e noi abbiamo fatto ricorso d'urgenza e abbiamo ottenuto una sentenza positiva che ricordo essere la terza sentenza, perché ce ne sono due a Bologna e una a Firenze, in quanto la norma evidentemente non può essere interpretata in maniera diversa. Ecco, sì, una norma che, come si capiva anche dal modo in cui l'hai spiegato, diciamo, lascia del non detto, dà adito, e questo si è capito molto anche nel dibattito politico, a un'incertezza, quantomeno si è abbinata anche alla circolare che è stata mandata ai sindaci. Per prima cosa ti vorrei chiedere una curiosità anche, nel senso, questo dubbio, questo alone di mistero che in qualche modo è stato alzato e che poi, e con queste sentenze, fortunatamente, si sta dirimendo in qualche modo, è dovuto al fatto che non si poteva fare quello che forse avrebbe voluto Salvini, che poi ha richiesto nella sua circolare, ovvero impedire l'iscrizione all'anagrafe. No, non si può impedire l'iscrizione all'anagrafe. Se si impedisse l'iscrizione all'anagrafe, allora se ci fosse una legge che impedisce l'iscrizione all'anagrafe, allora sarebbe un problema di costituzionalità della norma e anche di conformità di quella norma ai trattati europei e insomma a tutta la giurisprudenza europea. Quindi non si può vietare la residenza, ma perché non si può vietare? Perché sarebbe poi in contrasto con la ratio stessa della residenza. La residenza che cos'è? È l'iscrizione nelle liste anagrafiche di un comune. Le liste anagrafiche sono di competenza del Ministero dell'Interno, cioè l'anagrafe nasce come competenza del Ministero dell'Interno. E perché questo? E non magari competenza del Ministero del Welfare? Perché l'anagrafe nasce sulla base del bisogno di controllo sociale del Ministero, dello Stato. Cioè lo Stato, in particolare il Ministero, deve sapere dove si trovano le persone, Tant'è che la residenza non è soltanto un diritto, è anche un dovere, cioè i cittadini si devono iscrivere all'anagrafe, perché altrimenti lo Stato non saprebbe dove trovarli. È un'esigenza di controllo sociale. E quindi non dare la residenza a una persona significa che se quella persona commette un reato non la si troverà mai, perché non si sa dov'è. Se quella persona ha diritto a un'eredità non la si può trovare, perché non si sa dov'è. Ecco perché c'è un'ulteriore assurdità in questo voler rivendicare il mancato diritto alla residenza dei richiedenti asilo, rivendicare l'impossibilità per i richiedenti asilo di ottenere la residenza. E se non ottengono la residenza, dove si trovano poi queste persone? Come facciamo a collocarle? E soprattutto, siccome la residenza in questi casi è obbligatoria, necessaria per intraprendere un processo di integrazione, vogliamo che le persone siano senza residenza in mezzo a una strada, i richiedenti asilo, o vogliamo che invece imparino l'italiano, si integrino nella nostra società, possano lavorare in attesa della decisione della Commissione sulla loro richiesta di asilo? Decisione che può arrivare anche dopo un anno e mezzo, due anni a volte. In questi due anni cosa dovrebbero fare queste persone secondo il Ministro? Ciondolare in strada? Produrre insicurezza? Io mi chiedo questo, perché non c'è una ratio in questa opposizione, anche opposizione alle sentenze, no? Il Ministro ha detto che farà ricorso, piacerebbe vederlo quel ricorso, perché il Ministro non era parte in causa nelle sentenze, ma comunque, perché opporsi a una decisione di civiltà e che ci rende tutti più sicuri? E intanto un'altra domanda: come avvocato di Strada Onlus, voi avete già in carico altre persone, altri richiedenti asilo nello stesso, diciamo, per gli stessi procedimenti? Avete già annunciato che farete altri ricorsi dello stesso tipo anche in altre città? Allora, Avvocato di Strada è un'organizzazione di volontariato che si occupa di tutelare le persone più deboli, tutelare gratuitamente, a titolo di volontariato puro, le persone più deboli, in particolare coloro che vivono in strada e anche i migranti nel momento in cui richiedono l'asilo. Noi siamo presenti in 54 città italiane, l'anno scorso abbiamo tutelato 4.000 persone in Italia. Abbiamo rispetto a questa vicenda abbiamo già detto che noi non vorremmo alimentare un contenzioso di massa, non ci interessa alimentare un contenzioso di massa, però se nelle altre città in cui noi siamo presenti, che abbiamo già allertato, i richiedenti asilo dovessero recarsi all'anagrafe e dovessero vedersi respinta la domanda di residenza, noi dovremo agire giudizialmente per ottenere sentenze analoghe a quella di Bologna e a quella di Firenze. Faccio presente che molte città si stanno già muovendo. Ci sarà a breve una sentenza a Ferrara, ci sarà a breve un ricorso a Reggio Emilia, ma in tante altre città ci hanno già segnalato, sia come avvocato di strada, sia come associazioni di volontariato che si occupano di migranti, che si recheranno in tanti, si recheranno all'anagrafe, cioè i richiedenti asilo che si trovano in quelle città si recheranno all'anagrafe per chiedere la residenza e iniziare anche loro un percorso di integrazione. Solo se la residenza verrà negata dovremo agire giudizialmente. Una domanda tornando, diciamo, su Bologna: il sindaco Virginio Merola ha celebrato, diciamo, il risultato di queste sentenze. Allo stesso tempo in realtà c'era stata una discussione che aveva coinvolto anche ASGE, che è l'altra associazione, l'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione, che ha seguito la doppia, diciamo, l'altra richiesta insieme a quella che avete seguito voi, poi è stata una doppia sentenza. C'era stata questa discussione in cui si chiedeva un impegno al Comune di Bologna nel permettere l'iscrizione all'anagrafe. All'inizio la risposta su questa seconda parte era stata abbastanza negativa. Volevo sapere, secondo lei, cosa dovrebbe fare il Comune di Bologna e anche se avete ricevuto dei segnali in seguito a questa sentenza. Il Comune di Bologna ha già iscritto la nostra utente e iscriverà anche l'altra persona tutelata dall'avvocato Nazarena Zorzella dell'ASGI, che è l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Il Comune di Bologna ha già detto che iscriverà in seguito a queste sentenze tutti i richiedenti asilo che si trovano sul territorio bolognese e che chiedano la residenza. Faccio presente una cosa: il sindaco, nel momento in cui gestisce liste anagrafiche che sono di competenza del Ministero dell'Interno, non è il sindaco eletto dai cittadini, è un ufficiale di governo delegato direttamente al Ministero dell'Interno e deve seguire le istruzioni del Ministero dell'Interno, a meno che non venga fuori che quelle istruzioni sono in contrasto alla legge. Quindi, prima che si creasse questa giurisprudenza, è abbastanza normale che un sindaco dica: bene, ho un'istruzione dal mio diretto superiore, in quel caso il ministro dell'interno, che mi dice di non iscrivere, non posso iscrivere. E nel momento però in cui si fa una causa e c'è una sentenza, quel sindaco, per lo stesso motivo, perché deve essere rispettoso della legge, dovrà iscrivere le persone. Finché non c'è la giurisprudenza, capisco le perplessità anche del sindaco di Bologna, adesso la giurisprudenza si è creata e quindi mi auguro che gli altri sindaci tengano presente che si è creata questa giurisprudenza, che ci sono delle sentenze che spiegano esattamente per quale motivo è un obbligo per i comuni dare la residenza ai richiedenti asilo, è un obbligo, e spiegano anche che non c'è nessuna normativa, in particolare la legge Salvini, che vieti di dare la residenza ai richiedenti asilo. Quindi queste sentenze comunque potranno essere abbastanza, diciamo, anche per gli altri sindaci in questo senso, per andare avanti con l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo, perché già ce n'era stata una a Firenze e comunque non si era ancora sbloccata, diciamo, definitivamente la situazione. Sì, bisogna tenere presente che il nostro sistema non è un sistema di common law, per cui una sentenza diventa legge. Le sentenze sono delle sentenze, non sono una norma. È chiaro che quando si crea una giurisprudenza corposa, i vari soggetti in qualche maniera iniziano a attenersi a quella giurisprudenza. Quindi capisco che con una sentenza isolata si poteva pensare a una decisione isolata di un tribunale. Adesso le sentenze sono tre, ne arriveranno delle altre. Io mi auguro che i sindaci, anche per far risparmiare denaro ai propri concittadini, evitino il contenzioso, perché per quanto ci riguarda noi siamo volontari, non chiediamo nulla e non vogliamo nulla né ai nostri utenti né agli altri, perché lo facciamo a titolo di volontariato. Però il comune, quando si costituisce in un giudizio, deve assumere un avvocato e quell'avvocato deve pagarlo. E se la giurisprudenza dominante dice che quella posizione è sbagliata, la Corte dei Conti potrebbe anche interessarsi di quel comune e verificare se effettivamente quel comune legittimamente si è opposto a una richiesta come quella dell'iscrizione anagrafica, perché c'è anche questo tema. Quindi i comuni, se non si oppongono e fanno iscrivere le persone richiedenti asilo, da un lato fanno qualcosa che ormai è la cosa più corretta dal punto di vista giuridico, così come è stato ormai accertato da tre sentenze, e dall'altro lato evitano di far spendere soldi inutilmente ai propri concittadini. Perfetto, io la ringrazio molto e la saluto. Grazie, grazie, salve.